Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Continua a franare la terra in Calabria e Sicilia, centinaia gli sgomberi delle famiglie nei paesi colpiti. Protezione civile verso la bocciatura della SPA, nell'inchiesta entrano altre decine di nomi. Berlusconi sulle regionali, scelta di campo contro una sinistra distruttiva e un voto nazionale. Torna la Champions League, Milan in fibrillazione per la sfida contro il Manchester. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Dunque, con le grandi piogge dei giorni scorsi continua a franare il terreno in alcune zone del sud Italia. La zona più colpita è la Calabria, dove è stato evacuato un intero paese di oltre 2000 abitanti. La nostra Paola Nania ha sorvolato le zone del disastro. Saliamo sull'elicottero della Protezione Civile poco dopo le 8. Il volo da Catanzaro a Maierato, in provincia di Vibo Valentia, è breve. Dopo un quarto d'ora ci troviamo sul luogo della frana. La scena è impressionante, la montagna è sventrata, venuta giù come un castello di sabbia. Le case sono al lato del cratere, due o tre sono rimaste travolte. La situazione potrebbe peggiorare con le nuove piogge, per questo il sindaco ha sgomberato tutto il paese per precauzione. 2.300 persone, molti anziani, distribuiti tra la scuola di polizia e il palazzetto dello sport. I primi 300 erano stati allontanati ieri, l'assessore regionale all'ambiente Silvio Greco. Per fortuna che ieri mattina si è intervenuto rapidamente con l'evacuazione, se no stamattina saremmo qua a fare altri discorsi. In volo per Maierato osserviamo altre zone della Calabria ferita dal maltempo. Il Vibonese, insieme alle province di Catanzaro e Cosenza, sono centinaia le persone evacuate, decine le strade interrotte. Gli acquedotti danneggiati lasciano a secco interi quartieri. Una clinica del Cosentino è stata rifornita con le autobotti. Nel pomeriggio si riunisce d'urgenza la giunta regionale, dovrebbe chiedere al governo lo stato di calamità naturale. Paola Nania, GR24, il sole 24 ore, Catanzaro. Ora ci spostiamo in un'altra zona molto colpita dagli smottamenti, dove si continua a temere per le prossime ore, il paese siciliano di San Fratello, dove si trova Nadia Maio. Ci troviamo nel cuore del paese, nel piazzale antistante la chiesa di San Nicola, che è interessata dalla frana. Al centro della piazza c'è una linea di frattura della pavimentazione con un distacco di almeno 50 centimetri. L'ingresso in chiesa è consentito solo se accompagnati dai vigili del fuoco. Tra i banchi, pezzi di calcinaccio che si sono staccati dal soffitto. Non ci sono più né il crocifisso né l'altare maggiore, sono stati portati al sicuro. La chiesa è totalmente inagibile. Era stata edificata negli anni 50, dopo che nel 1922 la frana che interessò l'altra parte del paese aveva distrutto l'originaria chiesa di San Nicola. Oltre alla chiesa sono state danneggiate le scuole e numerose abitazioni private. Intanto qui a San Fratello e su tutti i Nebrodi continua a piovere e la pioggia di certo non aiuta. Questa dunque è la corrispondenza di Nadia Maio. Noi passiamo a parlare di politica, perché è in corso la conferenza stampa di Silvio Berlusconi per presentare i candidati alle elezioni regionali. Sta seguendo la conferenza stampa il nostro Andrea Viali, al quale chiediamo se effettivamente è ancora in corso o è finita e che cosa ha detto il Presidente del Consiglio. Andrea. È appena finita, Simone, la conferenza stampa, questa conferenza stampa che in qualche modo ha sancito il fatto che il Popolo delle Libertà ha scelto di puntare su quattro donne per espugnare quattro roccaforti della sinistra alle prossime elezioni regionali. Le quattro candidate sono state presentate appunto oggi dai vertici del partito. Lo ricordiamo, sono Anna Maria Bernini, che è candidata in Emilia-Romagna, Monica Fensi in Toscana, Fiammetta Modena in Umbria e Renata Polverini nel Lazio. Le pari opportunità c'è chi le predica come la sinistra, noi invece le pratichiamo, ha detto presentando appunto queste quattro candidate donne il ministro delle pari opportunità, Garfagna. E tutte e quattro le nostre candidate hanno possibilità di vincere, ha detto pochi istanti fa il premier Berlusconi, che ha confermato la rilevanza politica nazionale di queste elezioni regionali. Sarà una scelta di campo tra una maggioranza che è per il governo del fare e una sinistra, un'opposizione distruttiva e anti-italiana rispetto alla quale siamo antropologicamente diversi, ha concluso Berlusconi. A te la linea, Simone. E grazie Andrea Viali. Dunque, chi si aspettava parole di Silvio Berlusconi sulla vicenda della Protezione Civile è andato deluso. Di questa vicenda, degli sviluppi dell'inchiesta e di quel che sta succedendo sul fronte politico parleremo in apertura della seconda parte del giornale radio. Adesso andiamo all'estero, in Pakistan, dove è stato arrestato un importante leader talebano. Un raid compiuto dalle forze di sicurezza pakistane in collaborazione con l'intelligence americana ha portato all'arresto nei giorni scorsi di Mullah Abdul Ghani Baradar, il capo militare dei talebani afghani. La notizia della cattura, che sarebbe avvenuta nella megalopoli pakistana di Karachi, è stata resa nota soltanto ieri. Baradar è il prigioniero di più alto profilo dall'inizio della guerra e in questo momento si troverebbe nelle mani delle autorità di Islamabad. Il suo arresto si annuncia come un duro colpo per i militanti islamici che da alcuni giorni devono affrontare una massiccia offensiva della NATO nel sud dell'Afghanistan. Allo stesso tempo va però tenuto a mente che storicamente i talebani hanno sempre dimostrato una grande capacità di sostituire i propri comandanti mano a mano che venivano catturati o uccisi. A livello politico l'arresto di Baradar conferma che la leadership dei talebani afghani ha trovato riparo in Pakistan, ma allo stesso tempo dimostra che la tormentata collaborazione tra Washington e Islamabad potrebbe aver iniziato a dare i propri frutti. Marco Masciaga, GR24, Sole 24 Ore, New Delhi. E ci sono aggiornamenti anche sugli altri due fronti di tensione internazionale di queste ore. Innanzitutto la vicenda iraniana. Ci sono delle dichiarazioni che sono arrivate dal Cremlino, che ha ribadito che nessuno può escludere l'uso delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni da parte di Teheran sul proprio programma nucleare. Questo lo ha reso noto la portavoce del presidente russo Dmitry Medvedev, Natalia Timakova. Ed è poi di poco fa una dichiarazione del segretario di Stato americano Hillary Clinton, che ha detto oggi a Jeddah, dove si trova in visita, siamo in Arabia Saudita, che non vi sono prove che il programma nucleare iraniano sia per scopi pacifici. E poi c'è l'altro fronte di tensione internazionale ed è quello che riguarda la Libia, la chiusura delle frontiere libiche a tutte le persone provenienti dall'area Schengen. Si apprende, ed è di poco fa, che sono in corso contatti ad alto livello con le autorità svizzere, con quelle libiche, e l'auspicio che si possa trovare una soluzione diplomatica il più presto possibile. Lo ha affermato Michele Cercone, che è il portavoce del commissario europeo agli affari interni, Cecilia Malmström, rispondendo appunto alle domande dei giornalisti su questa decisione di Tripoli. Torniamo in Italia, andiamo a Milano. L'inchiesta sulle tangenti: dopo l'arresto dell'ex consigliere comunale Milko Pennisi, gli inquirenti lavorano a caccia di nuovi episodi o di nuove persone sottoposte a richieste di mazzette. Secondo dati della Corte dei Conti, i casi di corruzione si sono triplicati in un anno. Tutto questo mentre domani cade il 18° anniversario dell'arresto di Mario Chiesa, che segnò l'inizio di Mani Pulite e il crollo della Prima Repubblica. Ora è solo più difficile combattere la corruzione, perché per le vittime non è conveniente denunciare. Il parere di Piercamillo Davigo, ora giudice in Cassazione, era uno dei membri del pool di Mani Pulite, l'ha intervistato Raffaella Calandra. La Corte dei Conti, esattamente come noi, misura ciò che emerge. Ci sono però organizzazioni internazionali come Transparency International che misurano ciò che è percepito. Il problema è che l'Italia viene indicata tra i paesi più corrotti dell'Europa occidentale. Per qualunque reato c'è un dato che si chiama cifra nera, che è la differenza fra il numero di reati commessi e il numero di reati denunciati. Per i furti d'auto è pressoché inesistente. La corruzione è un reato con una cifra nera altissima, cioè solo una piccolissima percentuale di reati che vengono commessi diventano noti all'autorità. Che cos'è che trattiene le vittime dal denunciare? Tendono a denunciare quando non gli conviene più. Una strada potrebbe essere quella intrapresa nella lotta al pizzo, cioè escludere quegli imprenditori che pagano mazzette. Sarebbe il segno di una stigmatizzazione che condizionerebbe. Serve a poco se non si scopre. Noi fin dal 94 avevamo proposto almeno di stabilire la non punibilità del primo che parlava. Invece così hanno tutti l'interesse a starsi zitti, perché comunque vengono processati entrambi, sia chi ha pagato che chi ha ricevuto. Anniversario domani dell'arresto di Mario Chiesa, che cosa resta secondo lei di quella inchiesta? Che è stata la prima volta in cui il fenomeno è emerso nella sua reale dimensione. Avrebbe dovuto essere un'occasione storica per la politica, per l'imprenditoria, e purtroppo questo temo non lo sia stato. Qualche notizia di spettacolo e cultura, iniziando dal Festival di Sanremo. Adesso tocca alle canzoni, lo dice Antonella Clerici. Credo che al di là delle polemiche che accompagnano sempre questa kermesse musicale ormai da 60 anni e che fanno parte un po' del sale e del pepe dell'evento, ci siano delle bellissime canzoni, e io ci tengo molto a questa gara, sia dei big che dei giovani. Il tormentone Morgan è servito finora a tenere desta l'attenzione, ma ora non basta. Ci provano Luca Laurenti e Paolo Bonolis a tirare sull'apertura, perché a Sanremo il buongiorno si vede dal mattino. mattino, o meglio dalla serata, dalla prima serata. Ovviamente fa parte chiunque della compagnia di giro, i giovani dei talent, le vecchie glorie, basta che facciano parlare, come il principe Emanuele Filiberto di Savoia che, grazie al cielo, si è scoperto non canta davvero. È una canzone che ha un testo molto personale per me, e poi c'è questa voce del tenore che è, diciamo, il mio subconscio, no? Che dice che sì, stasera sono qui per dire al mondo addio, Italia amore mio, io non mi stancherò, che è quello che penso io ed è quello che vorrei dare al pubblico, che non posso dare perché io di voce non ne ho tanto. Marta Cagnola, GR24 Il Sole 24 Ore, Sanremo. La cultura adesso quest'anno sarà tutto all'insegna del Caravaggio. A 4 secoli dalla sua morte, l'Italia celebra il grande artista attraverso varie iniziative del Comitato Nazionale costituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Venerdì una mostra intitolata Caravaggio, sempre nella capitale, vicino, presso le scuderie del Quirinale, ma anche altre mostre ancora, convegni, spettacoli teatrali, concerti. Di recente è uscita una biografia su Michelangelo Merisi, intitolata White Album, delle edizioni Cooper. L'autore è Andrea Dusio. Ci sono delle biografie particolarmente ingombranti, quella di Caravaggio sicuramente è una di queste, uno di quei casi in cui la vita, o quello che si è sempre raccontato sulla vita, rischia di schiacciare un pochino l'opera. Caravaggio White Album è un po' il tentativo di mettere un attimo da parte i dati biografici più scontati su Caravaggio, cioè la sua presunta omosessualità, la violenza, i comportamenti isterici, qualcuno parla anche di pazzia, per andare a guardare un pochino di più l'opera e come l'opera è nata dal pensiero del pittore. Un pittore che pensava in una maniera nuova, che vedeva in una maniera nuova le cose e che le rappresentava in una maniera nuova, che ha inventato la fotografia, che ha inventato il cinema e che ha inventato la pittura di realtà, insomma, dove prima esisteva solo una pittura idealizzata che non ci diceva nulla di come il mondo è, ma solo di come ce lo vorrebbero far apparire. Il pittore è assolutamente contemporaneo. Le 13:17 minuti 42 secondi nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato delle frane che stanno colpendo la Calabria e la Sicilia, degli sgomberi delle famiglie nei paesi colpiti. Abbiamo parlato della conferenza stampa di Silvio Berlusconi sul tema delle regionali, ha detto tra le altre cose che è una scelta di campo contro una sinistra distruttiva e ha aggiunto che queste elezioni regionali avranno una valenza nazionale. Poi abbiamo parlato dell'arresto di un importante leader talebano. Adesso ritorniamo sull'inchiesta sugli appalti per il G8 della Maddalena. Ne parliamo perché inizia a delinearsi più chiaramente il quadro dei personaggi coinvolti. 20.267 pagine divise in 20 faldoni, l'informativa del ROS somiglia ad un'enciclopedia. Contiene migliaia di intercettazioni, foto e più di un assaggio, spesso penalmente irrilevante, di intrecci fra politici, imprenditori, funzionari pubblici. Fra gli indagati l'ultimo nome eccellente è quello del coordinatore del PDL, Denis Verdini. Di lui gli uomini dell'arma raccontano di contatti frequenti con l'imprenditore fiorentino Riccardo Fusi, presidente della BTP, la decima impresa di costruzioni italiana. Fusi avrebbe cercato dei contatti per ottenere degli appalti, ma Verdini, ascoltato ieri in procura, ha detto di aver chiarito la sua posizione. Le foto provano gli incontri fra Guido Bertolaso, l'imprenditore Anemone, Angelo Balducci, Fabio De Santis e gli altri indagati. Ma c'è dell'altro. Nel sistema gelatinoso, come lo definiscono gli inquirenti, compaiono accanto agli indagati i nomi del presidente della Lazio, Lotito, quello di Giancarlo Leone ai vertici della RAI, del presidente della regione Calabria, Loiero, di Paolo Berlusconi, fratello del premier. Rapporti fra amici, richieste di raccomandazione e contatti fra cognati famosi, come quello di Bertolaso, ingegnere della protezione civile, e Paolo Palombelli, cognato di Francesco Rutelli. Per ora sono soltanto nomi scritti nero su bianco. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore. E ci spostiamo in Parlamento, dove è in discussione il decreto sulla protezione civile. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi, che sta seguendo i lavori della Commissione Ambiente della Camera. Alessandra. Sì, buongiorno, va avanti a singhiozzo l'esame del contestato decreto sulla protezione civile, mentre è ufficiale lo stralcio di larga parte dell'articolo 16 che prevedeva la trasformazione di questa in società per azioni, l'opposizione non è soddisfatta e ha chiesto per protesta una sospensione dei lavori. Così spiega Ermete Realacci del PD, che fa parte della commissione. Sentiamo. Ci sono dei passi avanti, ma rimane il problema di separare nettamente la protezione civile da una degenerazione che nel corso di questi anni ha usato le ordinanze di protezione civile, le procedure di emergenza per dare appalti senza regole, per aprire spazi anche a coloro che nella notte del terremoto dell'Aquila ridevano perché c'era una tragedia in corso. Ad annunciare lo stralcio dell'articolo 16 è stato lo stesso Bertolaso, presente in commissione, al quale i deputati del PDL hanno rinnovato piena fiducia. Sentiamo Antonio Leone, vicepresidente della Camera. È chiaro, qui non è in discussione la legittimità dell'operato della protezione civile, è sotto gli occhi di tutti, l'operato è stato non solo efficace ma anche legittimo. Una normazione a posteriori serve per il futuro, non certo per una legittimazione odierna. Non appena riprenderanno i lavori la Commissione voterà gli emendamenti, tra questi arriva anche la sospensione di tutte le tasse per 6 mesi nei territori colpiti dalle calamità naturali. L'opposizione ha chiesto comunque più tempo per esaminarli, si comincerà a votare alle 14 con 2 ore di ritardo, domani invece il voto in aula, il governo dovrebbe porre la fiducia. Da Montecitorio è tutta, a voi la linea. Grazie dunque Alessandra Schepisi. Un altro tema che sta tenendo banco in politica in queste ore è quello dell'immigrazione, a questo era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Il centrodestra ha governato in 7 degli ultimi 9 anni. La legge che regola i flussi migratori porta anche il suo nome, ma per Umberto Bossi vicende come gli scontri di via Padova a Milano hanno una causa chiara. È la sinistra che con la sua politica ha fatto venire montagne di immigrati negli anni passati, senza casa, senza lavoro, e così si creano i quartieri ghetto. Una posizione che abbiamo sottoposto agli ascoltatori nel nostro sondaggio di oggi, e vi siete letteralmente spaccati: il 50% di voi dà ragione al leader del Carroccio. Tra i leghisti combattivi c'è Matteo Salvini, che rilancia la sua idea di non vendere case agli stranieri. È la legge Kohler che esiste in Svizzera. Se qualcuno vuole andare a curiosare su internet, su Google, digita legge Kohler. In Svizzera non si vendono case agli stranieri per difendere il suolo. Per quanto mi riguarda, ad esempio, nel quartiere cinese di Paolo Sarpi, se si impedisse di comprare case e negozi a chi viene da fuori Italia, ci sarebbero meno problemi. Bianconero torna domattina alle 8:30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Ancora cronaca: 3 morti e alcuni feriti nell'incidente stradale che ha coinvolto questa mattina un pullman di studenti francesi all'uscita dello svincolo di massa della A12. Le vittime sono un ragazzo di 13 anni, uno dei due autisti e un insegnante. 4 i feriti gravi. Il pullman proveniente da Bordeaux è arrivato in Italia per una gita, era partito da Firenze. Secondo alcune testimonianze, il mezzo avrebbe decelerato improvvisamente, cambiato corsia, per poi finire in una scarpata. Secondo le prime indicazioni, tutto sarebbe dovuto o a un colpo di sonno o a un guasto meccanico. Andiamo a Bruxelles adesso, dove oggi si svolgerà l'Ecofin dopo l'Eurogruppo di ieri. L'inviato del Sole 24 Ore, Tino Pesole. È la Grecia sotto accusa qui a Bruxelles. Già ieri sera l'Eurogruppo, che riunisce i 16 ministri dell'economia dell'area dell'euro, che questa mattina all'Ecofin, alla presenza di tutti i 27 ministri europei, è il caso della Grecia a tenere banco. La richiesta che giunge sia da Jean-Claude Juncker, che è il presidente dell'Eurogruppo, che dall'altro Jean-Claude Trichet, il presidente della BCE, sia infine da parte del commissario economico agli affari economici Olli Rehn, è che la Grecia deve mettere in campo ulteriori sforzi per ridurre quest'anno di 4 punti un deficit che è già al 12% del PIL. È evidente il rischio del contagio, avvertito con forza qui a Bruxelles, anche per le possibili pesanti ricadute sull'intera economia di Eurolandia. La Grecia si difende e il ministro Papa Costantinou replica: abbiamo già fatto abbastanza. In ballo c'è anche la questione dei conti greci falsificati, già emersa nei mesi scorsi e rilanciata domenica scorsa con grande evidenza dal New York Times. L'altra partita riguarda i vertici della BCE. L'Ecofin si appresta a ratificare la nomina del governatore portoghese Vitor Constancio a vicepresidente della BCE al posto del greco Lucas Papademos, ma la vera partita riguarda la successione a Trichet in programma tra 1 anno e mezzo. 2 le candidature, quella dell'italiano Mario Draghi e del tedesco Alex Weber. A gennaio 2010 il mercato dell'auto in Europa ha chiuso in progresso del 13% rispetto allo stesso mese di un anno fa, totalizzando 1.085.000 nuove immatricolazioni contro le 961.000 di gennaio 2009, lo comunica l'Associazione dei Costruttori Europei. Senza un rinnovo degli incentivi si prevede però un 2010 in netto calo, secondo l'UNRAE, l'associazione che raggruppa le case automobilistiche estere presenti in Italia. Nel nostro paese si subirà nel 2010 una flessione di 350.000 immatricolazioni. Parliamo di un altro settore industriale, quello della telefonia mobile, che si riunisce in questi giorni a Barcellona, dove si trova il nostro inviato Enrico Pagliarini. Enrico. Buongiorno, un primo dato riguarda lo stato di salute e il fermento che c'è nel mercato che nonostante la crisi mondiale è atteso in crescita anche nel 2010 dopo aver superato 4 miliardi di utenti in tutto il mondo lo scorso anno. Per quanto riguarda i prodotti non ci sono stati grandi annunci, oggi HTC ha presentato 3 nuovi terminali touch dopo le novità presentate da Samsung e Sony Ericsson, parliamo prevalentemente di touchscreen. Questa fiera potremmo dire segna il ritorno in grande stile di Motorola dopo un anno di difficoltà. Nokia non ha presentato nuovi telefoni, c'è stata un po' di delusione rimandando le novità, almeno queste sono le voci di corridoio, le novità di prodotto di una o due settimane. L'annuncio di Nokia riguarda invece un nuovo sistema operativo chiamato Migo, basato su Linux, sviluppato insieme ad Intel. Questo annuncio fa capire bene quanto l'attenzione dell'industria si stia spostando sul software che fa funzionare gli smartphone piuttosto che sull'hardware. Non è un caso che ieri Microsoft abbia presentato Windows 7. Per il momento è tutto. E grazie Enrico Pagliarini. Ora il calcio in chiusura con la super partita tra Milan e Manchester. Strano e affascinante incrocio tra passato e futuro la sfida di stasera. Milan e Manchester sono come due vecchi pugili che tante se ne sono date e tante se ne sono dette. Alex Ferguson, glorioso ammiraglio dei Reds, carica la sua flotta dicendo che questo Milan non è più quello di un tempo, che le sue stelle si stanno spegnendo, che l'Inter è molto più forte. Però Sir Alex deve stare attento, sia perché l'aria di Coppa rivitalizza i rossoneri, sia perché a San Siro il Manchester, 0 gol nelle ultime 4 sfide, fa una gran fatica. Toccherà a Rooney, bomber al top della carriera, sfatare la tradizione. Poi ci sono gli incroci pericolosi, come quel Beckham quasi predestinato nel suo ruolo di ex. Se faccio gol non esulto, ha detto il gentile Spice Boys, lanciando una maliziosa macumba che costringe i Reds agli scongiuri. Il Milan, diciamolo, è strano, tanto talento e poche gambe. Però, quando le sue stelle non stanno a guardare, San Siro si illumina a giorno. Buon divertimento a tutti. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchesi e con in regia Fabio Cantadori. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.